Savonarola, il frate che sconfessò Firenze. Prose scelte. Un programma prodotto da Davide e Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, quando la tecnologia l'avevano solo i ricchi e i cavalli li avevano anche i poveri, e lette da me oggi, quando la tecnologia l'hanno anche i poveri, ma i cavalli li hanno solo i ricchi. D'altra parte, povero è quello che desidera assai, e sempre stenta chi mai si contenta. Serio. Capitolo 9. Magnificamente no. Lorenzo il Magnifico si era ritirato nella sua amena villa di Careggi. Un male fierissimo travagliava le sue viscere e già nei primi giorni dell'aprile 1492 non v'era più alcuna speranza di guarigione. Invano i medici tentavano ogni prova dell'arte salutare, invano era venuto da Pavia il rinomato Lazzaro d'Afficino. La sua meravigliosa bevanda di gemme distillate non dava alcun risultato e il Magnifico era vicino a morte. I pochi amici che restano fedeli in quelle ore estreme gli dimostravano un grande affetto. Il Ficino e il Piccolo visitavano di continuo. Angelo Poliziano non s'era mai dipartito dal suo letto. Questi amava sinceramente il suo mecenate, sentiva di perdere in lui quello a cui doveva tutto nella vita, quello a cui la gratitudine lo aveva legato più che ad ogni altro uomo sulla terra. Invano cercava nascondere il suo dolore, invano voleva trattenere le lacrime. Lorenzo lo fissava con quello sguardo misterioso dei moribondi ed egli non era più padrone di sé e dava in un pianto dirotto. L'affetto rendeva solenni queste ultime ore del Magnifico, che avendo rivolto sinceramente i suoi pensieri alla religione sembrava essere tutto mutato. Ed infatti quando gli fu portata la comunione si forzò di levarsi, volle essere sostenuto sulle braccia dei suoi familiari per andare incontro al sacerdote, che vedendolo così stranamente commosso dovette ordinargli di ritornare a letto, ove si durò non poca fatica per rimetterlo in calma. Il passato ridestavasi alla memoria di Lorenzo, terribile e spaventoso. A misura che egli si avvicinava all'ora estrema, le sue colpe parevano giganteggiare innanzi ai suoi occhi e divenire sempre più minacciose. A questo terrore gli estremi uffici della religione non davano alcun conforto, perché egli, avendo perduto ogni fiducia degli uomini, non credeva neppure alla sincerità del suo medesimo confessore. Usato a vedere ognuno obbedire ai suoi cenni, piegarsi alla sua volontà, non sapeva persuadersi che alcuno potesse ardire di negargli l'assoluzione. Onde essa non aveva di niente alleviato il peso che opprimeva la sua coscienza e i suoi rimorsi erano sempre più crudeli. «Niuno osò mai darmi un no risoluto», andava egli fra sé ripensando, e questo pensiero, che una volta era stato il suo orgoglio, diveniva ora il suo martirio. Ad un tratto però gli venne innanzi l'immagine severa del Savonarola, si rammentò che esso non aveva ceduto né alle minacce né alle lusinghe ed esclamò: «Io non conosco altro vero frate se non questo», e mostrò desiderio di confessarsi a lui. Fu subito mandato a San Marco per il Savonarola, il quale restò così meravigliato d'una tanto insolita e inaspettata chiamata che quasi non vi credette, e fece rispondere come gli pareva inutile il suo andare a Careggi, perché certo le sue parole non sarebbero state di buon animo accolte da Lorenzo. Ma quando gli fu descritto il grave stato del malato e il desiderio da esso manifestato di confessarsi a lui, si mise subito in cammino. Lorenzo sentivasi quel giorno più che mai presso alla morte. Aveva chiamato a sé il figlio Piero e dato i consigli ultimi e l'estremo addio. Quando gli amici che erano stati esclusi da questo colloquio poterono rientrare in camera e allontanare il figlio la cui presenza lo aveva già troppo commosso, egli mostrò desiderio di rivedere Pico della Mirandola, che subito venne. Parve che la dolce presenza di quel giovane benevolo e tranquillo lo calmasse un poco e gli disse: «Io sarei morto assai scontento se non mi fossi prima rallegrato un poco della tua vista». Non appena si partiva il Pico che entrava il Savonarola e s'accostava ossequiosamente al letto del moribondo Lorenzo. Tre peccati egli voleva confessare a lui e chiederne assoluzione: il sacco di Volterra, i danari tolti al Monte delle Fanciulle, cagione a moltissime di perduta vita, il sangue sparso dopo la congiura dei pazzi. Nel parlare il Magnifico si agitava di nuovo ed il Savonarola, per calmarlo, andava ripetendo: «Iddio è buono, Iddio è misericordioso, ma», aggiunse non appena Lorenzo ebbe finito di parlare, «ma vi bisognano tre cose». «E quali, padre?» rispose Lorenzo. Il volto del Savonarola divenia grave e, spiegando le dita della sua destra, egli incominciava a dire: «Primo, vi bisogna avere una grande e viva fede nella misericordia di Dio». Questa io l'ho grandissima. Secondo, vi bisogna restituire tutto il mal tolto o commettere ai vostri figli che lo restituiscano per voi. A questo il Magnifico parve rimanere maravigliato e dolente, eppure facendo forza a se stesso acconsentì con un cenno del capo. Il Savonarola levossi finalmente in piedi e mentre il moribondo principe si rimpiccioliva pauroso nel letto, egli sembrava diventare maggiore di sé dicendo: «Ultimo, vi bisogna restituire la libertà al popolo di Firenze». Il suo volto era solenne, la voce quasi terribile. Gli occhi per indovinare la risposta stavano intenti e fissi in quelli di Lorenzo, il quale, raccogliendo quante forze la natura gli aveva lasciate in quel punto, volse sdegnosamente le spalle senza pronunziar più parola. E così il Savonarola si partiva senza dare l'assoluzione e il Magnifico, lacerato dai rimorsi, dava poco di poi l'ultimo fiato, il giorno 8 aprile 1492. La morte di Lorenzo dei Medici portava un gran mutamento nelle cose di Toscana e d'Italia. Il suo accorto procedere, il sapersi con prudenza destreggiare fra i vari potentati, il tenerli con molta arte uniti fra loro, lo avevano fatto quasi moderatore della politica italiana e Firenze ne era divenuto centro delle più gravi faccende di Stato. Piero invece parea che in ogni sua qualità fosse opposto al padre. Bello e valido della persona, s'era abbandonato tutto ai piaceri delle donne e agli esercizi del corpo. Egli aveva una facilità grande di verseggiare improvviso e una pronunzia grata e piacevole, ma poneva la sua ambizione nel cavalcare e giostrare, nei giochi del calcio, del pugno e della palla, nei quali si teneva tanto valente da sfidare i primi giocatori d'Italia che venivano perciò in Firenze. Egli aveva ereditato dalla sua madre tutta la superbia di casa Orsina, ma dal padre niuna di quelle maniere modeste e civili che tanto avevano contribuito a renderlo popolare. Era invece di modi rotti e spiaceva a ognuno. Lasciavasi poi trasportare così violentemente dall'ira che un giorno, in presenza di molti, dette uno schiaffo a uno dei suoi cugini. Queste cose erano tenute in Firenze assai più intollerabili di ogni aperta violazione delle leggi e bastavano per sé sole a creargli un gran numero di nemici. Né i suoi modi spiacevano solo ai privati, ma fin dal principio del suo governo s'era in maniera disgustato tutti quei principi italiani che Firenze ne perdeva tutta quella preminenza che Lorenzo aveva saputo conservarle. Trascurava affatto le cose dello Stato, né si dava altra cura se non quella di cercare un'occasione a restringere vie più il governo nelle sue mani. Ogni giorno distruggeva qualcuna di quelle apparenze di libertà che il Magnifico con tanta cura aveva lasciate intatte e a cui il popolo era ancora assai affezionato. Onde l'universale dei cittadini ne stava sempre più malcontento e s'era già formato un partito avverso che veniva di continuo accresciuto da moltissimi di coloro medesimi che sotto Lorenzo erano stati dei più affezionati ai Medici. Già cominciava una certa aspettazione di cose nuove, le quali divenivano d'ora in ora più desiderabili e più necessarie perché Piero, vedendosi abbandonato dai cittadini di reputazione, era costretto a circondarsi di gente sempre più nuova ed incapace. La moltitudine cresceva perciò intorno al Pergamo del Savonarola, il quale veniva considerato come il predicatore del partito avverso ai Medici. L'essersi il Magnifico presso alla morte voluto confessare a lui avevagli fatto guadagnare infinitamente nell'opinione di tutti coloro che erano stati ammiratori di quel principe e che ora si allontanavano dal figlio per i suoi modi violenti e per la sua malsicura politica. Il popolo andava da un altro lato rammentando come nella sagrestia di San Marco, in presenza di alcuni rispettabili cittadini, il Savonarola aveva predetto la morte vicina di Lorenzo, del Papa e del Re di Napoli. Una parte di questa predizione era sì quasi immantinente verificata, un'altra sembrava già vicina al suo adempimento. Le forze vitali di Innocenzo VIII svanivano rapidamente. Egli era da più tempo caduto in una specie di sopore, cresciuto qualche volta sino al punto di farlo credere morto a tutta la corte. Si cercava invano ogni mezzo per ridestare la spenta vitalità del Papa quando un medico ebreo propose di tentare con un nuovo strumento la trasfusione del sangue, cosa tentata fino allora soltanto sugli animali. Il sangue del decrepito pontefice doveva passare tutto nelle vene di un giovane che doveva cedergli il suo. Tre volte fu tentata la difficile prova nella quale, senza alcun giovamento del Papa, tre giovanetti perderono successivamente la vita, forse a cagione di aria introdottasi nelle vene. Fatto sta, il giorno 25 aprile 1492 cessava di vivere Innocenzo VIII e cominciavasi subito a trattare la nuova elezione. La corruttela era nella corte romana giunta a tal segno che quelle medesime enormità, le quali una volta si facevano in segreto ed erano non di meno occasione di scandalo e di rammarico universale, avevano luogo adesso sotto agli occhi di tutti e senza che alcuno quasi se ne maravigliasse. I cardinali non passarono nel conclave il numero di 23. La elezione si ridusse ad un semplice mercato di voti nel quale riuscì vittorioso Roderigo Borgia per essere il cardinale che poteva offrire un maggior prezzo ed un maggior numero di impieghi. Quel giorno medesimo i romani videro con indifferenza le mule cariche d'oro entrare nel palazzo da Ascanio Sforza, che era stato il più forte rivale del Borgia, e parlavasi dei particolari di quel mercato come di cose ordinarie e naturali. Il nome d'Alessandro VI, che fu assunto dal nuovo pontefice, è noto abbastanza per turpe fama, senza che vi sia bisogno di fermarsi a parlarne troppo lungamente. Di nazione spagnuolo, egli era in origine avvocato di Valenza. La sua grande facilità nel parlare e un'attitudine maravigliosa a tutti gli affari, specialmente di finanza e di amministrazione, lo avevano di grado in grado fatto salire al cardinalato. Una delle passioni che più fortemente lo dominarono era l'avidità insaziabile del danaro, per cui egli si trovava di continuo in intimi rapporti coi mori, coi turchi e con gli ebrei, disprezzando ogni pregiudizio ed ogni uso più rispettato del suo secolo. Così poter raccogliere quella ricchissima fortuna che lo fece ascendere al papato. Amava la vita libera e sciolta dei sensi ed era sempre stato sotto il dominio di qualche donna. Quando pervenne al pontificato era la famosa Vannozza. Prima era stata la madre di lei e più tardi fu la figlia Lucrezia Borgia, cagione di quegli scandali e quelle sanguinose gelosie che tutto il mondo conosce e che resero il nome di quella famiglia un disonore della specie umana. Tale era la fama di colui che saliva al pontificato che l'annunzio ne fu ricevuto in tutta Italia con un rammarico universale e Ferdinando di Napoli non poté trattenere le lacrime, cosa che non gli era seguita neppure nella morte dei figli. Parve non di meno che il principio di questo pontificato volesse smentire l'opinione che se n'era concepita. Si vide per la prima volta rimessa in qualche ordine l'amministrazione delle entrate pontificie. I delitti che negli anni decorsi avevano infestato la campagna e tutte le province, numerandosi per ogni settimana quasi a centinaia, furono severamente repressi e scemarono a un tratto meravigliosamente. Troppo presto però si conobbe che tutto ciò aveva un solo scopo, quello di cavare più facilmente dai sudditi una maggior quantità di denaro e creare dei principati più fermi e sicuri ai figli del Papa, i quali già si rendevano noti per la oscenità delle loro libidini e l'atrocità dei loro delitti. Per questi fatti gli animi erano davvero atterriti e guardavano con trepidazione il futuro. Gli occhi si volgevano involontariamente a colui che sempre aveva predetto sventure all'Italia e alla Chiesa e le cui parole sembravano stranamente verificarsi tutte. Due dei principi ai quali aveva predetto la morte erano adesso già scesi nella tomba. Il terzo non poteva per la sua decrepitezza tardare ancora molto e la Chiesa non aveva da secoli versato in condizioni sì tristi. Le tre famose conclusioni passavano perciò di bocca in bocca. Lo sconforto dei veri credenti faceva che essi vi cominciassero a prestare un'intera fede e lo strano terrore che s'era impadronito dell'universale spargeva nel mondo il nome del Savonarola, il quale era nel medesimo tempo causa e vittima di queste voci. Il vedere come allora quasi ognuno si volgesse verso le sue idee lo confermava ed esaltava più che mai in esse. I tempi destinati gli parevano ormai vicini, leggeva e rileggeva i profeti, predicava con maggiore impeto, né è meraviglia che in tale stato crescessero le sue visioni.